Lanubi ec sucro. Lanubi ec sucro filigita. En labulue sohel ed obscur. Dimea dii, qui donatus saporo. A mea gaeso, qui min ledigas mea tristesso. Colorizas per blanquesso, nivea lammo mea stuporanta, ed orun frol per sua mol, tuscio legger, igante lu tale dolza, quale facita ec sucro.